Ah, allora aspetta, perché qua i nostri ospiti, noi mentre facevamo un'introduzione, hanno maturato una curiosità nei confronti del coxo con il tuo immaginario. Ah, fantastico. E quindi Maria Rosa, la manna. Sì. Di nome di fatto. Ha una domanda per il coxo. Rispondiamo. Ascoltiamola. Adesso. Si sente? Bene. No, sai che non la sento io lei. Prova ad avvicinarti un po' di più. Adesso? Adesso ti sento. Wow, che momento. Bene, è proprio romantico. Sembra lontanissimo. Ok, e la domanda era semplicissima, era secondo il tuo immaginario, appunto qual è l'immagine che hai di un coxo spaziale? Hai detto coxo? Ho detto coxo! Applausi! Ma guarda, a me, rispondo seriamente, presente quando a 2001 di sera nello spazio la scimmia butta l'osso per aria. E chi può dimenticarlo? È un po' così. E con questa io saluterei Stefano, che esatto, no, anche perché qua stanno per sì, portare, che c'è tutto da fare con i VIX, poi si sa, le inaugurazioni d'Astuni sono molto molto importanti in questo momento della giornata. Tiziane. Invece io chiedo ai nostri ospiti, insieme a te Stefano, resta qua un altro po', dichiarare il proprio nome, la propria identità e la propia voce insieme. Okay, un piccolo giro. Tutti insieme? Due. No, uno alla volta. Ah, uno alla volta. Insieme voce e nome. Pronto a fare un madrigale quello vocale. Dopo, magari alla fine. Un madrigalino. Che c'entra, c'entra, stiamo anticipando i tempi, quasi va avanti. Allora, Maria Rosa Lamanna, da Maison 22. Luis Remelli e basta, da Meton 22 e dal futuro e da Galleria e da Galleria Più, più. E Valentina Medda da nulla da niente, talmente tanto che non si sa, di appartenenza che non si sa, e quindi da coxo stasera sicuramente. Ma mi devo presentare anch'io? Sì. Ah, ok, Stefano W. Pasquini è da Fruit, venite a Fruit domani. Ok. No, scusate, venite a Maison 22 domani. Queste cose le domani è un giorno lungo, dai. E io sono Fedra Boscaro dal Coxo, che saluta Stefano e dà il via ai contenuti della trasmissione. Beccatevi questo. Brava, così ti voglio. This is when boundaries stop being between something and split into opposite sides. They stop being possibilities and they become dichotomies. Exclusion and inclusion, right and wrong, far and close, foreigner and domestic, insider and outsider. Going through other people's memories and their previous life, I feel like I'm healing. At the line between different I can finally understand. There was no difference between us. We shared guilt and shame. We both refused to accept the other's personal reasons. Too afraid to listen, we left no space for a confrontation. Cannibalism is said to be an act of respect toward the conquered people. In eating the enemy, cannibals are recognizing its power. You told me, you're not doing anything more than highlighting what's there. You heard me. It sounded like an accusation, but then, isn't this all it matters, highlighting what is there? Who am I to create what needs to be created? But the thing that hurts me the most in these past weeks was your new tattoo. Appunto. Sussurriamo anche noi. Ciao ospiti, come ciao, state? Ciao. Io lascio un po' nel sottofondo questa narrazione, mixandola con il mio tappeto sonoro d'affezione, la colonna sonora di Utopia, che mi è piaciuto tanto. E ritorno qui in studio per la 199esima puntata del Cox, no, 169esima, io i numeri li do sempre, il venerdì sera, anche le gaffe, non preoccupatevi, non mancheranno neanche questa sera. E quindi siamo insieme a Valentina Medda, che è l'artista che Maria Rosa Lamanna e Maison 22 hanno ospitato, hanno chiamato per questa ennesima Arte Fiera, l'Arte Fiera 2017, che è un bellissimo numero. E poi abbiamo anche Luis e Basta, che prima ha rivelato anche il cognome, ma io ovviamente non me lo ricordo, che c'entra con Galleria Più, ma anche questo forse si perderà nei. Quindi ragazzi, questo abbiamo introdotto questo momento più mirato della trasmissione, perché andiamo qui a parlare del motivo per cui siete qui, e con questo audio. Come partiamo dall'audio per arrivare ai contenuti? Questo audio è stato registrato in New York e non c'entra assolutamente niente con quello che faremo a Bologna. Beh, ci piace, molto toxico, sì, in linea, in linea. Infatti abbiamo pensato di portarlo apposta per questo. Grazie. Per depistare un po'. In realtà ha dei rimandi al lavoro precedente, cioè ha dei rimandi al lavoro attuale che presenteremo in Maison, di cui Louise vuole darci un'introduzione. Perché io sono l'artista e sono troppo coinvolta, quindi non me la sento. Ecco, bene, infatti, bene. Io per raccontarvela in maniera il più capibile possibile, Valentina è come una guaritrice, nel senso che lei vede nei muri quelli che sono le pareti di Maison, gli spazi di Maison, ne riconosce le ferite, le mappa, le traccia e cerca di guarirle, dandogli anche una forma umana, trasponendole nel suo corpo in un certo senso. E alla fine di tutto questo lavoro, tra l'altro, c'è una sorpresa, però un po' ve la sto dicendo, ha cercato di trasportare qualcuna di queste cicatrici, di queste forme sul suo corpo. Ma con successo la casa che viene, sì, abitata dai corpi, sì, e vengono scoperte le cicatrici, sì, e riportate su un corpo, sì, è un ciclo bellissimo, sì, perché queste cicatrici sono state abbandonate da persone che hanno vissuto lo spazio prima di Valentina, giusto? Sì, c'è, cioè, in qualche modo il farsi corpo della casa e la casa come luogo di appartenenza che ritorna al corpo, e questo in particolare nell'ultimo pezzo, che è l'ultimo lavoro che non era previsto in mostra e che di cui ho sognato la seconda notte. La visione. Ho avuto la visione la seconda della notte mezza. Che è in residenza a Maison, perché in tutto ciò, appunto, per adattare il progetto a Maison 22, sì, Maison mi sta offrendo una residenza artistica di 2 settimane e mezzo. Sì. Ok, quindi tu sei arrivata qui dai tuoi 1000 altrove, sì, e portando una ricerca che era cominciata in un altro altrove, dico bene? Sì, che sì, era cominciata a Flux. No, va bene così, Vale, grazie. No, scusami. Era Maria cominciata Rosa a Flux nel 2015. E approda in Maison 22 nel gennaio del 2017 in occasione di Arte Fiera per l'Art City White Night, quindi il modo in cui Maison partecipa a questa notte bianca è quello della riflessione, della presa in cura del proprio corpo inteso come spazio, del proprio spazio e del corpo che lo abita, attraverso non la l'indifferenza nei confronti del problema, dell'anomalia, della traccia, anche di quello che non è bello, come una ferita, no? Una cicatrice, senza ostentarla assolutamente, ma con una certa verità, una cifra di verità che scoprirete, insomma, venendo domani in Maison 22 dalle 21:30. Vogliamo fare una piccola per i coxo ascoltatori che non avessero avuto la fortuna di incontrare già questo posto così ricco, di fare una parentesi di cos'è e come funziona Maison 22? Wow. Lo so, dirlo in breve. Infatti diventa melodrammatico. Allora lo può raccontare, beh, Valentina. Sì, forse meglio, perché ha fatto tantissime residenze in molte altre città, in situazioni. Allora, sì, Maison 22 nello specifico è uno spazio domestico, cioè una casa privata che da 5 anni a questa parte viene usata anche come spazio espositivo, mettendo gli artisti invitati a confronto proprio con la specificità di dell'intimità di uno spazio domestico, no? Quindi chiedendo agli artisti di confrontarsi proprio con dei segni di presenza che sono lì, quindi non nello spazio sì. neutro, i muri bianchi della galleria. E, nel tempo Maison ha anche cominciato a ospitare delle residenze. Sì. Questa parlavamo ieri, potrebbe essere considerata la quarta. Assolutamente una homemade 4. Homemade 4. E rispetto al discorso residenza, per me che sono stata in residenza in svariati posti, cioè a Bruxelles, a Parigi due volte, in due differenti residenze artistiche anche abbastanza importanti, a New York, a Milano, eccetera. Direi che questa è l'esperienza più interessante finora, nel senso che il confrontarsi con uno spazio appunto che non è neutro, anche proprio per il mio lavoro che lavoro sulla relazione corpo-spazio, il confrontarsi con uno spazio che non è neutro, con gli abitanti dello spazio, con quello che lasciano, ma anche banalmente con dei tempi che questi abitanti dettano e che tu devi rispettare, fa sì che si crei un dialogo che appunto poi domani sarà in mostra, fra l'altro, in una delle stanze, e attraverso Valentina e Davide è uno degli abitanti, mio coinquilino, sì, e nella sua camera. E quindi Maison credo che abbia proprio questa specificità di chiedere non soltanto di lavorare sul site specific, ma su un site specific così già denso di presenze e di tracce. Quindi, perfetto. grazie, sono soddisfatta, mi sento... Io, sentir narrare, no? Vero che è bello sentir narrare dagli altri? Sì. Quindi grazie. Abbiamo un triangolo di soddisfazioni dall'altra parte del vetro. Di qua un po' di concitazione registica, però vai. ci sono. E quindi la 169esima puntata è dedicata a il nome del lavoro... Home is a sick body. È il titolo della mostra. L'avete detto insieme, ragazzi, sì, mi commuovo. Siamo molto corali. Allora dopo vi faccio anche dire i nomi insieme per i saluti, così ormai siete scappati. Quindi questo nome questo nome parla tanto, sì. Ma allora si riferisce proprio alla relazione, appunto, come Maria Rosa diceva, anche Luis dicevano prima, all'analogia sulla quale sto lavorando da un po' di tempo fra spazio architettonico e corpo, in particolare fra pelle e muri. Mm-hmm. E home is a sick body vuol dire che lo spazio è uno spazio da curare, non tanto nel senso che è malato, ma nel senso che è uno spazio da prendere in cura, quindi anche la cura e la trasformazione come atto politico in qualche modo, no? di attenzione, di trasformazione, no? di lavoro di cesello. E, il titolo della mostra, che racchiude tre lavori diversi. Uno sono gli Healing Interventions for Domestic Wounds, quindi interventi di guarigione per ferite domestiche, lavoro che è iniziato, una serie di interventi che avvengono nello spazio, che ogni volta si declinano in maniera singolare e specifica, e che è iniziato appunto a New York e adesso continua a Maison. In due spazi, in due Maison, il living room e un passaggio, insomma, sì, tra le io ho individuato delle tracce appunto, segni di presenza, segni del tempo che hanno agito sull'architettura, eccetera. Un catalogo che si chiama Catalogo Ragionato di escoriazioni sensibili, che è iniziato nel mio spazio domestico a New York, continua qui a Maison e continuerà. Si amplierà, che si rifà l'eziologia di una delle stanze, per cui le cause di queste ferite che vengono raccolte e catalogate in dei... vabbè, non posso svelare tutto, però che vengono raccolte e catalogate attraverso un processo di manipolazione fotografica, mettiamola così, che risulta in degli oggetti scultorei. E anche attraverso poi il catalogo di narrazioni, di racconti personali, esatto, nella camera di Davide, sì, dove Valentina ha intervenuto rintracciando una serie di tracce e collegandole alle memorie di ferite che riguardano il vissuto di quest'altra persona, che è l'abitante reale della casa. E alla fine abbiamo invece le tavole anatomiche nell'altra camera, sì, che è la camera di Mario. E il trittico? Il trittico più le tavole anatomiche e il trittico e le tavole anatomiche, che è tutto un lavoro di ricerca dell'organicità del corpo nelle strutture architettoniche. Io a questo punto avrei due curiosità. Sì. Ve le pongo e magari rispondete prima a quella che impiega meno tempo, perché ci stiamo avvicinando alla fatidica metà della trasmissione dove succedono cose inenarrabili. Allora, la prima riguarda gli strumenti che tu usi. Ho visto un po' di foto nei comunicati stampa e ci sono degli attrezzi che sono proprio quelli presi dalla... E quindi o un piccolo approfondimento su questo, oppure, e che in caso l'altra la riprendiamo dopo la seconda metà della puntata, nella seconda metà della trasmissione, come lo senti questo spaziare di spazio in spazio della ricerca, questo attraversamento di luoghi, come insiste sulla ricerca stessa, qual è il rapporto che tu senti rispetto a questa cosa del... quindi facciamo la prima. La prima sì, volutamente io sto usando degli strumenti medici, appunto ci sono questo si può dire, tanto si vedono le foto, gli aghi di agopuntura con i quali io intervengo sul muro su queste macchie. È meraviglioso. e poi il catalogo è fatto di dei vetrini o comunque di supporti che rimandano al vetrino del microscopio su diverse misure e sui quali ci sono dei frammenti di pelle, che è una pelle fotografica, quindi rimanda a un discorso sulla fotografia, ma è anche proprio effettivamente l'immagine dell'escoriazione del muro che io in quel momento ho ripreso. E questi si collegano alla stanza, quindi ciò che stai vedendo nel vetrino concettualmente si ricollega alla stanza, per cui sì, ci sono la cosa dell'individuare ferite nelle case e di procedere ad un percorso di cura, anche a vedere ovviamente appunto l'eziologia con i motivi per cui è una casa è affetta da ferite in tante maniere diverse, le crepe della struttura, il terremoto oppure l'umidità, anche un po' di intonaco che scende, vibrazioni dal traffico, chiodi sui muri. Ma e gli abitanti. Esatto, chiodi sui muri, muro, l'ombre dei mobili. E io sinceramente ho sempre provato molto fascino per quelle stanze delle case dove degli anziani che poi vengono spostati tutti i mobili, ci restano sono i segni delle foto, il box nero della televisione andata per chissà quante volte. Mi chiedevo, rispetto appunto all'eziologia, che hai criteri diversi a seconda della natura della ferita? No, in questo caso ad esempio c'è una macchia di umido che quindi è macchia in qualche modo del tempo, dell'azione del tempo sullo spazio, però poi di fatto rimanda agli abitanti di sopra, perché ovviamente se c'è una macchia di umido è perché c'è qualche tubatura probabilmente che sta perdendo, e così come ci sono delle... così come ci sono degli altri segni invece in camera di Davide che sono più storicizzabili in qualche modo, no? Sono molto più antichi e molto probabilmente è una camera anche che ha vissuto delle ferite differenti, perché ha trovato in Davide un coinquilino fisso da veramente poco, possiamo dire luglio, mentre prima è stata una camera attraversata da più e più presenze. Ci sono anche delle che è interessante adesso che ne parliamo, ci pensavo, ci sono anche delle tracce che sono di, ad esempio, le tracce di pittura, ci sono delle tracce che sono anche di intervento architettonico sulla stanza, non strutturale, quindi un qualcuno che ha pitturato la stanza, che però non è la persona che ci sta vivendo, non è l'agire del tempo, non è, no? Cioè, non è l'azione del tempo sulla stanza. Ma tu investighi lavorando su quello che trovi, oppure fai anche delle ricerche tipo informandoti col vicinato? Sarebbe bellissimo, è bello comunque. Ah, è vero, forse... testimonianze. No, non faccio, cioè... testimonianze. Aspetta, sì, non lo so, tipo, ma veramente questa macchia, c'hai un tubo che perde? Magari in questo modo potresti anche lavorare proprio come ristrutturatrice, forse. No, questa era una battuta fin troppo facile, scusami, mi vergogno di me. È che siamo giunti... Però vendere l'intervento in appartamenti privati, why not? Certo. Bene, allora con questo rilancio possibile per il 2017 e oltre... rimanete in ascolto che si continua con la 169esima puntata di Coxo Spaziale, i nostri super mega galattici ospiti dopo quello che sapete che succede a metà. Grazie. Coxo Sacrale. La rubrica di Zino. Come il nome di un cinese. Comincio a pensare che ci sia una ragione del perché anche quest'anno mi trovo ad Arte Fiera. Perché è un ingresso gratuito? No, per amore. L'amore è una cosa meravigliosa. Quando lo trovi, tutto il mondo profuma di Arbor Magique alla papaya caraibica. Ed è allora che lo devi prendere e tenere, prima che tutto il mondo torni a puzzare come un sottopalle di un lottatore di sumo. Ma l'amore non si può comprare, al massimo lo affitti per 3 minuti. Qui invece ad Arte Fiera mettono in vendita tutto, anche queste enormi opere rese nel legno laccato opaco. Aderisce ad una parete di cartongesso e mi fa venire in mente il mio nuovo Cullen a 4 cassetti dell'IKEA. Non che ci somigli, l'opera ha più dell'Udal, con un pizzico di Askwall, specialmente nelle finiture. Prezzo 15.000 euro, non faccio una piega, tanto ho sempre preferito di più il Cullen. Cox spaziale. Ma dici di uscire? Andiamo nel pomeriggio magari. Ha finito il lavoro, facciamo un giro. Cambiamo. Io voglio tagliare, rasarmi i capelli per fare una cerella. Ah no, ma ragazzi, veramente io veramente con il taglio dei capelli vado a nozze. Però domani porto la macchinetta. Perfetto, però adesso siamo nella seconda parte della puntata. Sì, vi ho fatto l'alzata del volume così alla Cox, come si fa. Per fortuna che non stavamo criticando la trasmissione, ma che palle. Questo lo fa Pasquini di solito quando è in diretta, perciò sono pronta a tutto. Ma comunque voi siete talmente super mega galattici che non c'è. E allora voi avete già avuto l'anticipazione e sapete che cosa c'è adesso, che il jingle anche è già andato nel mentre che cercavo di ricaptare, però davanti ai capelli effettivamente anch'io ho scordato tutto. E allora, per chi l'avesse scordato, adesso c'è. Adesso c'è. No, lo dico io. L'intervista telefonica. No. Adesso c'è. La reclam. No, c'è già stata. Adesso c'è questo. Un attimo. La sì, l'avevi presa. L'angolo della menzione. Un po' ralenti, però ci siamo. E va bene. E quindi sappiamo cosa dobbiamo fare. Avete già deciso chi legge il primo? Sì. Andiamo. Allora, dalle 21:30 del 28 di sabato 28 domani Night Juice RY Night Party with God Bless Computers DJ set al Palazzo Renzo. Ah, ma ce n'era un'altra prima. Vabbè, la leggiamo dopo. Quale? C'eravamo noi. Oh, Madonna. Allora, rinizio. Ore 21:30. Ham is a sick body. Al Maison 22 si manifesta a Bologna il secondo movimento del lavoro di Valentina Medda, iniziato negli spazi di Flux Factory a New York nell'aprile 2015 e ripensato per Maison 22 a Bologna in occasione di Arte Fiera 2017. Si tratta di un'opera di medicalizzazione dello spazio abitativo come contenitore di relazioni, fratture, ferite e passaggi. E di questo abbiamo parlato e parleremo ancora con le mie subdole curiosità. Andiamo avanti, adesso sì che c'è Fruit con Pasquini che ci aspetta lì. Dalle 21:30 Night Juice Art White Night Party with God Bless Computer DJ set a Palazzo Renzo. Dopo il successo dell'edizione 2016, Fruit Exhibition e Associazione Culturale Peacock Lab tornano ad animare la notte bianca dell'arte con Night Juice, il party più atteso della settimana di Arte Fiera, anche quest'anno in collaborazione con Peacock Lab. Alle 20:30 invece di martedì 31, perché per Arte Fiera più di fare voi e Pasquini non si può. Abbiamo il meglio, che cosa vogliamo fare? Quindi martedì 31 alle 20:30 la presentazione di Appello agli abitanti della Terra contro il cancro della paura dell'associazione ABC. Presentazione dell'ultimo libro di Simone Ramilli con la partecipazione del poeta Gabriele Via e le incursioni sonore curate da Gabriele Via e Guglielmo Pagnozzi. Siete meravigliosi. E allora io premio questo momento di enfasi della menzione con anche un collegamento telefonico. Infatti abbiamo in diretta, sempre che ci sia ancora, Simone Ramilli. Ci sei? Ci sono. E poi collegamento coxofonico riuscito. Ciao Simone, grazie per essere qui con noi ed effettivamente Ed effettivamente il tema del tuo libro ha uno spessore che, insomma, è un po' difficile incastrare dentro il coxo, poi un coxo così esplosivo, però in realtà anche il contenuto, anche qui la puntata, guarda caso, parlava di ferite in qualche modo, ferite, paura. Cosa ci racconti di questa tua nuova pubblicazione e dell'intervento, la kermesse che hai organizzato per martedì? Certamente, sì, martedì sera. Diciamo, se riprendiamo il titolo del libro, che è un po' anomalo, un titolo molto lungo, il mio precedente invece era molto breve, si chiamava La cura, il titolo Appello agli abitanti della terra contro il cancro della paura. Ecco, un po' il titolo già ci dice molto di che cosa parla. Parla il libro del, appunto, il ruolo della paura nella nostra società. Sappiamo oggi tutti che viviamo in società spaventata, e questo spaventarsi, una sensazione che è alimentata anche dalla crisi, dagli attentati terroristici, ma quasi, tutte quelle che sono, quasi sollecitata, mi verrebbe da dire, no? Perché insomma pare talmente dominante da poter essere caratterizzata in maniera forse anche cosciente. Esattamente, ci sono i cantori della paura, sappiamo, no? Che possono essere tanti, innumerevoli, e ci sono anche i cantori della paura nella politica. E oggi sappiamo che le recenti elezioni, anche negli Stati Uniti di Trump, piuttosto che in altri paesi, pensiamo all'Ungheria, pensiamo a molti paesi anche del nord Europa, di fatto le forze populiste che spingono sul fuoco della paura sono andate al potere. E quindi è una minaccia che non è più una paura che riguarda solo il corpo sociale, ma ha anche dei riflessi in politica. E quindi un appello agli abitanti della terra intera, che esce in Italia dalla tua voce, dalla voce di un letterato conosciuto, e che martedì incontra nuovamente il proprio pubblico e si presenta in persona, in poesia e in musica. Esattamente, sì, perché proprio per rendere la serata più piacevole e anche più leggera, visto il tema della paura, ci saranno delle incursioni sia poetiche che sonore, come dicevamo, con Gabriele Via, che è un grande poeta di Bologna, grande per me, ma conosciuto, insomma, apprezzato sicuramente. Io sono fan, lo dico, anche di Pagnozzi sono fan, ma anche di Ramilli sono fan. Grazie anche a noi, allora. E quindi ci saranno queste incursioni sonore, queste poesie sia di Gabriele Via o di altri autori sul tema della paura, ecco. Va bene, per allora io so che importante, seriosa, ma anche prendere una strada più. Io so, fra l'altro, Simone, che tu sei pienissimo, che in queste giornate d'arte fiera, una cena, un incontro e via dicendo, perciò ti ringrazio tantissimo per esserti riuscito a ricavare questi minuti, e ovviamente ti rinnovo l'invito a venirci a trovare in modo da dedicare una puntata ad approfondire il tuo excursus, la tua ricerca e la tua letteratura. Volentieri. Allora, a prestissimo e grazie ancora. Noi ci vediamo sicuramente martedì 31 alle 23 ad ABC per la presentazione del tuo ultimo libro. Perfetto. Scusami, alle 20:30. Il 31 alle 20:30. Sì, perfetto. Guarda, veramente. Però nel su www.coxospaziale.blogspot.com c'è tutto, giusto? Va bene. Esatto. Grazie, buona serata e grazie ancora per essere stato con noi. Ciao. Grazie a te, grazie al pubblico e agli ospiti. Ciao. Ciao. Benissimo, e qui per introdurre la prossima menzione, sì, un brano. Un brano. L'innamoramento facile, il mio sguardo è così docile da lasciarsi accarezzare da ogni minima distrazione. Oh sì, oh, l'innamoramento facile, non mi importa se raccolgo briciole, A me piace farmi fulminare, in amore muoio di frontale, ma ora sei tu che mi fai sobbalzare, poi domani chissà staremo a guardare. Io che cosa saprò portarmi via da questa realtà, è la realtà che io fugo, lo ammetto, e questo mondo da un po' mi sta stretto, e innamorarmi di te mi porta via da me, innamorarmi di te mi porta via da quella me che io non sopporto. Intensità invidiabile, ma sai questo mi fa stare male, quando non la posso controllare, ma sei tu che mi fai sobbalzare, poi domani chissà staremo a guardare. Io che cosa saprà portarmi via da questa realtà, è la realtà che io fugo, lo ammetto, e questo mondo da un po' mi sta stretto, e innamorarmi di te mi porta via da me, e innamorarmi di te mi porta via da quella me che io non sopporto. Alle volte non mi sopporto, no, alle volte non mi sopporto, io proprio non mi sopporto, ed è quando non mi sopporto che io fugo da me per perdermi in te e scordarmi di me. Eccoci qui, io quando sento la Roberta veramente sono così, ma no, non dividevo di non devo fare il Pasquini, no. Io devo continuare giù dritta con, con Roberta. L'angolo della menzione. Eh sì, sta da finire. E questo brano si sa che insomma chiama in causa una menzione tipo, che la leggo io che non ho ancora letto. Sì, mercoledì 1 alle ore 21:30 Roberta Giallo live, guarda caso, al Bravo Caffè. Dopo il sold out del 24 gennaio, la cantautrice ad adozione bolognese torna al Bravo Caffè per la seconda data di presentazione del suo album, L'oscurità di Guillaume. Ho detto bene, Roberta? Guarda, hai scandito benissimo tutto, anche Bravo Caffè l'hai sottolineato bene, questi pensano bene. E non mi sono impaperata, non ho fatto la gaffe, una cosa... No, no. E hai fatto una buona nasale. Ah, anche, meraviglioso. Sì, no, su Guillaume. Allora, cari amici ospiti di questa puntata del Coxo, vi presento la seconda ospite telefonica della 169esima puntata, Roberta Giallo, che dopo aver lanciato il suo album adesso ci ringrazia. Cioè ci regala una nuova opportunità di andarla a sentire live. Io sono andata il 24, i brividi di gioia. E so che tornerai probabilmente anche l'uno, giusto Fedra? Adesso vediamo, no, io di sicuro sì, vediamo se trovo qualcuno che mi accompagna. Lui? Ma sì, vuoi che non trovi un accompagnatore? Luis di Galleria Più. Allora lui e basta, però che ha un cognome anche se non lo dice, di Galleria Più, forse vengo con lui. Questo brandizzare i nomi a questo punto. Allora, con gioia. Sì, allora, adesso questa sera abbiamo un po' di problemi con il volume del microfono, si sente della telefonica, si sente un po' poco. Perciò mi sentite male? No, adesso ti sento, proviamo a parlare più piano noi in studio. Lato, no, il contrario, è che noi ce l'abbiamo altro, quindi noi sussurriamo. E Roberta invece ci racconta, raccontaci di questo prossimo concerto e delle novità relative al disco. Ma allora, come tu avrai visto, è un concerto spettacolo, nel senso che è sicuramente uno spettacolo musicale, ma c'è di mezzo una narrazione, perché questo disco è un concept album in cui racconto una storia d'amore travagliata con delle punte di thriller, ma che io rendo anche comiche, perché fa parte di me anche scherzare sulla tragedia, e quindi chi verrà sarà coinvolto all'interno di uno spettacolo musicale, anche visivo e anche un po' teatrale. Detto questo, è importante questa data perché è la seconda data a Bologna, dopodiché sarò in Liguria, Cinema Cristallo il 14 febbraio e l'11 marzo a Milano, e poi sarò credo il 31 anche al Mambo per un contesto di storytelling, che io appunto racconterò parte di questa storia. Ma perché venire al Bravo Caffè? Perché come Fedra potrà, come dire, mi fai da garante, è uno spettacolo molto bello che muove alla commozione, giusto Fedra? Sì, è vero, alla gioia del riso e anche alla commozione. Intanto è arrivata dell'animo. La pizza, scusate. Che ci vuole anche quella, certe volte commuove anche quella. Non cucinano, sono in una fase promozionale, visto, chiamate su chiamate. La cosa, cosa meravigliosa è che prima del Coxo, mentre venivo a prendere l'autobus, ho avuto la fortuna di fare una passeggiatina con Roberta e per 10 minuti, scusa, c'ho un'intervista telefonica, gli ho fatto il video, è stato un momento bello, ha fatto parlare anche a me, che ero tutta emozionata, oddio, mi vuoi parlare in radio? Va bene. Praticamente non sto vivendo più, perché dopo ne ho fatto un'altra ancora, adesso c'è questa e adesso mi arriva anche la pizza, così anche io mangio. Va bene, e con la pizza noi ti salutiamo, che la pizza bella buona calda, e ci vediamo sicuramente. Un bacione a te, ai tuoi amici studio. Ciao Roberta. Ciao. Al Bravo, ciao ragazzi. Ci vediamo mercoledì 1. Eh sì, eh. Già. Alle 21:30. Al Bravo Caffè. Bravo Caffè. Ciao. Bravi, bravissimi. Ciao. Ma è partito male, scusate. Ecco, ci voleva, fatto bene. Adesso siamo a posto. Bene. E quindi non lo so, metto un altro branino così per ripigliarci. Anzi, metto i 2 minuti di Lolli, che non avevo fatto in tempo a metterli prima, che è la seconda rubrica del Coxo. Bene. I 2 minuti di Lolli hanno una durata percepita variabile. Il mare è vita, la vastità, la vastità, la vastità, la vastità, la vastità. Come possiamo vivere senza mare? Noi che andavamo a fumare in sala giochi nel seminterrato del Bar Pineta. Il nostro mare italico. Il nostro mare è l'Adriatico granitico ed il Tirreno anche un po' meno. Ottenere le agognate ferie per scaraventarsi sull'A14 ascoltando all'improvviso il duetto Fedez Gianna Nannini su Isoradio, che è poi così che succedono gli incidenti, maledicendo per l'eternità quelli che stanno in mezzo, poi stando in mezzo, poi essendo sfanalati dai tir che spostano bancali, allora, sui portellini industriali. C'era Maria Rosa che diceva che amava questa rubrica. Io mi sono accorta che è per bene la terza puntata che rimando lo stesso intervento di Lolli. Quindi infatti mi pareva strano di essere andata troppo bene sia l'altra volta che questa. Infatti questo era il grande appartenenza all'Adriatico piuttosto che al Tirreno. Comunque allora io sono tirrenica, è molto più divertente. Ok, se vuoi ascoltare il 40° contributo di Lolli, puoi andare su www.coxospaziale.blogspot.com e non riascoltare questa puntata, ma quella con Zino. Esatto. Invece noi ci facciamo un momentino di musica un pochino più musicale, giusto un pelino per fare oppure lo teniamo per dopo, per la fine, e continuiamo con le nostre chiacchiere, perché ormai i minuti sono contati. Vedi tu, c'è qualche domanda? Ragazzi, c'è qualche domanda che noi vogliamo fare a Fedra? Infatti. Beh, innanzitutto un'altra cosa che ho omesso di dire è stato 333 180 94 94. Sì, 333. Avremmo avuto delle persone che insomma potevano chiamarci, no? Le avremmo avute, le avrebbero avute, chiamate? Ma non le avrebbero chiamate. Mi avete perso, ragazzi, sì, mi avete perso. Non ci sono. Questa è meta riflessività, meta autoreferenzialità facebookiana. Sì. D'altronde ci stiamo facendo un selfie proprio in questo momento. Ma avete fatto le foto, bravo, poi me le date. Ok, bene, quindi le foto domani le pubblichiamo. No, forse domani no, perché domani è una giornata un po' X. Mi sa che sarà più domenica. Sì. Però non è un problema, perché tanto, a parte domani che ci sarà il grosso dell'inaugurazione, il tuo lavoro resterà in mostra fino a. Credo che gli interventi set specific rimarranno assolutamente. Ah, proprio perenne. Sì. Beh, perenne. Stratificati almeno con prossimi interventi. È così che funziona. Sì. No, non è detto, però dipende. Cioè, ci sono degli interventi che poi rimangono, e secondo me questo di Valentina ha un senso, quindi potrebbe rimanere, perché tra l'altro è in luoghi, in posti della casa in cui forse gli interventi futuri potrebbero, insomma, non avere. Mi piace questo piacere. Tuo aspetto speculativo e meditativo, che così, con lo sguardo al futuro. No, ma sai, questa è la quarta residenza, e partiremo con un progetto legato poi al bando di Incredible che abbiamo vinto, che è più legato al design di interni. Per cui credo che il lavoro di Valentina rimarrà a lungo, cioè prima di continuare a fare un homemade dal punto di vista performativo e installativo, credo che un po' di mesi rimarranno. E allora facciamo così: quando sarete partiti con il prossimo progetto, a una certa settimana che vi sarà più congeniale, ci torni a raccontare di quello che state facendo e anche di come stanno gli interventi di Valentina. Va no? Bene, con piacere. Magari sentiamo lei. Magari una Skype call con lei, così ci dice dov'è e cos'altro, quale altro spazio ha curato. Sì, giusto. E invece con Luis cosa facciamo? Io torno domani, da quello che ho capito. Non hai inaugurazioni domani? No, domani qui. No, io sono qua. Sei qui domani. Dai, sì. Bene. Un nuovo accolito di Radio Città Fujiko. Nuovo boxo. Vuoi farci una rubrica anche tu, per caso? Perché no? Perché no? Penso. Una lettura moderna e contemporanea dei segni zodiacali, mi piace sempre parlare. Oh, no, ti prego, scopo meraviglioso. Ma ormai c'è Simon, ragazzi, ormai dopo Simon. No, ma molto meglio, no, molto meglio. Molto meglio, io. Vabbè, molto meglio. Il livello si è alzato, sì, molto, sì. Per cui devi essere un po' all'altezza. Ma io confido in te. Certo, stasera troviamo un nome. Bene, bene. Tra l'altro anch'io ho in pentola forse una prossima nuova trasmissione solo donne. Dici. Ma è ancora un po' così, voci di donne nella notte che parlano di cosa potranno parlare. Di capelli, rasatura in piazza. E magari vi faccio sapere qualcosa se poi avrete voglia, perché avremo bisogno di tante donne che abbiano voglia, sarà un bisettimanale, che abbiano voglia di venire qui in studio a farsi un'oretta di queste chiacchiere, poi alcune telefoneranno, parleremo. Ma io posso farlo da New York? Lo facciamo da Skype. Te Skype. Orario, Valentina Mezza. Sì, sì. Certo, non è divertente. Tra l'altro c'è anche Matilde che ho invitato. Quindi e noi lo facciamo insieme. Allora noi lo facciamo insieme, facciamo un salotto newyorkese. Sarebbe perfetto. Dai, essere con qualcun altro. Dai, l'orario è possibile. L'orario è possibile, però sai, da solo via Skype è un po' sfiga. Invece se sei un'altra newyorkese con te, diventa più divertente. Sì. Così fate anche il parallelo tra le tipologie di questioni che andremo ad analizzare qui e lì. Certo, se cambia qualche cosa, certo. Se è il caso di vedere tutte da là. Oppure non lo so. Oppure di andarsene all'altra parte. Questo è un nuovo mondo. Rimanete sempre quelli del nuovo mondo. Ormai dopo Trump, come vi sentite? Ma adesso la smettiamo. Va bene, allora mancano 5 minuti. Okay. Difficile. Forse anche un minutino in meno, che abbiamo le pubblicità che vanno a cavallo. E quindi cominciamo con i saluti. Con i saluti. Vogliamo provare che salutate con tutti e tre i nomi insieme? Io dico e vi saluto i super mega galattici ospiti e lo dite tutti insieme i vostri nomi. Però attenti a allora, e siamo giunti al termine della 169esima puntata del Coxo, una puntata che mi ha scaldato il cuore, le ascelle. Scusatemi, questa era pessima. Le ascelle.